Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino a qualche tempo fa non potevo fare a meno del mio computer per lavorare, della mia Vespa per muovermi e della televisione per distrarmi. Poi nella mia vita è successa una cosa che ha cambiato le prospettive e la loro importanza. Ecco, in quel momento lì ho deciso, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Lo so, capita, succede a tutti e stavolta è toccata a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un tavolino. Decifrato il mistero, restava un dubbio. Che cosa fare con il paperino? Problema che non riuscivo a risolvere. Lo portavo nascosto in giro, nel mio zaino, e gli offrivo un po' del mio cibo. Non nego che tra noi intercorreva una certa simpatia. Il mio istinto materno, meglio in questo caso paterno, ha fatto nascere un inconsueto sentimento verso il piccolo papero. Mi regalava sguardi ardenti che poco hanno di gratitudine e molto di passione. Sovente si affacciava dalla tasca laterale dello zaino e mi guardava con occhi lucidi. Io ho pensato di lasciarlo, ma non potevo. Era superiore alle mie forze. Insomma, che cosa diavolo fare? E poi è finita. Un giorno l'ho visto liberarsi in volo con ali che non gli facevo sue. Erano verdi e azzurre. Ha salutato gli altri pappagalli parlanti e l'amico tapiro. Di me non se n'è accorto. E sono contento. Buongiorno a tutti, questo è un pezzo di un racconto che si intitola Il papero e la radio. L'ha scritto e ce l'ha mandato Luca Merlo, che dice di sé: sono un ingegnere chimico più per passione che per convinzione. Di solito si dice così quando uno fa il poeta o il pittore. Sono sposato con un piccolo di 2 anni e mezzo che deve ancora crescere ed imparare come gira il mondo. Desidero di realizzare, poter partecipare alla Vendée Globe, il giro intorno al mondo in solitario senza scalo, si parla di barcavela. Però dice: ho famiglia e ho figli, limitiamoci allora alla partecipazione al prossimo giro di Sardegna a vela, organizzato con una flotta di G34, barca a vela di 10 metri. Grazie Luca che partecipa al concorso Vendo Anch'io. Voi avete tempo ancora, 1, 2, 3 giorni, fino a venerdì alle 16.30 per partecipare al concorso. Per farlo voi decidete qual è l'oggetto di cui volete liberarvi. Scrivete un racconto che racconti la storia di quell'oggetto in una pagina, una mini biografia e un desiderio da realizzare. Lo inviate a vendotutto@radio24.it, noi li selezioniamo e decidiamo chi sono i 5 finalisti. I 5 finalisti, e sottolineo purtroppo perché forse non l'ho fatto con chiarezza, i 5 finalisti dovranno essere a Riva del Garda insieme a noi sabato 19 giugno alle 22 e portare con sé il proprio oggetto. Questo oggetto verrà venduto, tutti e 5 gli oggetti verranno venduti. Il vincitore del concorso riceverà il montepremi dell'asta effettuata lì al vivo dalla Piazza delle Erbe di Riva del Garda. Vendo tutto @radio24.it per partecipare, per sapere invece come funziona e per leggerlo meglio di quanto l'abbia spiegato io, radio24.it, oppure sul profilo Facebook Matteo Caccia. Vendo tutto. Sono le 16:11 minuti, a Milano c'è una splendida giornata e io ieri ne ho fatta una delle mie. Avete presente quando vi capita di dire una cosa che magari è pure la verità, però appena l'hai detta dici: ma no, ma perché, ma non era il caso? È venuto a vivere sotto casa mia un ragazzo che ha un cane, un bellissimo cane, è un cane gigante, un molossoide, si chiama Dog de Bordeaux. Avete presente? Dog de Bordeaux è quel cane, quello di Tequila e Bonetti, quello della pubblicità della team dell'anno scorso. Insomma, bellissimo, con questo pelo raso ma color whisky, tipo. È gigante, è un molossoide, lo dice la parola stessa. E adesso che comincia a fare caldo, Paolino, mi abbasseresti un pelo la base, anche di notte, quando è fuori nel cortiletto fa questo rumore qui. A me piace un sacco sto cane, si chiama Raul, però fa veramente un casino inenarrabile. E l'altra mattina ho visto il suo padrone, poi mi piace, sai anche perché? Perché i cani lì sono grandi e sono pigri, fa così. Sono pigri da morire sti cani, non c'ha voglia di fare niente, mi fa impazzire per quello. E stamattina il suo padrone cercava di portarlo a fare una passeggiata e io dicevo: non c'ha molta voglia. Lui fa: no, ma tra l'altro dà fastidio di notte. E io gli ho detto: ma si sente un po' che fa. E lui: ah, scusami, adesso lo tengo in casa. E adesso sto povero Cristo di un cane starà in casa con il caldo che fa. E subito mi sono detto: non serve veramente dire sempre tutta la verità. 800 24 00 24, 349 238 6666, perché oggi si parla un po' di questo, non del molossoide di Raul, si parla di quelle situazioni in cui, a me capitava spesso con mia nonna di cui parlo oggi, in cui dici, ti fanno una domanda e tu c'hai quell'attimo in cui ti viene da dirla la verità, no? È proprio una roba, è un nanosecondo dopo, o meglio anche mentre la stai dicendo dici ma no, ma perché, ma non è il caso, tipo quando il vostro capo vi fa una domanda riguardo, che so, il vostro stipendio, no? Non ve la farà mai il vostro capo, però te lo dovesse fare, vi sembra adeguato? No, sinceramente non mi sembra adeguato. Un secondo dopo, ma perché? Non dovevo dirlo. 800240024. Di solito con le mogli o con le fidanzate capita, no? Ti piace il mio nuovo taglio di capelli? Boh, mi sembri un dog de Bordeaux. Ecco, no! Non si dice quella roba lì. 800240024. Ma anche quando, che so io, vi è capitato magari da giovani di bigiare alla scuola e c'era quel momento di confidenza con la madre o col padre in cui diceva vabbè dai, glielo dico perché ci vogliamo bene. No! Ecco, quel momento lì, no! 800240024. Ma una volta è capitato col mio allenatore quando giocava a pallone, quindi si parla di anni fa. Ieri sera avete fatto tardi prima della partita? Tutti no, figurati. Io dico, ma sì, io sono tornato verso le 4 di mattina. Perfetto, caccia in panchina. Non si fa. 800240024 349-238-6666. La verità che avreste fatto meglio a non dire. Cose piccole, ma anche cose grandi. Se, ad esempio, avete visto la donna del vostro amico con un altro, forse non era il caso che gliela dicevate. 800240024 349-238-6666. Si parla del tavolino che vendo oggi, si parla di mia nonna. Per vedere il tavolino e non mia nonna, radio24.it. Per sentire la storia, eccola qua. Il tavolino. Tavolino a tre gambe con piano e contenitore porta oggetti. Ottimo anche come comodino. Colore blu con gambe in metallo. Altezza 65 cm, diametro 45 cm. Perfetto per appoggiare oggetti o per nasconderceli all'interno. Valore commerciale 25 euro. Base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ma perché alcune persone devono dire per forza la verità? E non sono capaci di portare il peso di una bella bugia, magari una bugia bianca, di quelle che semplicemente non dici niente. Ci sono un sacco di persone che per carattere dicono tutto. Chissà, forse perché così si illudono di essere buone, si sentono trasparenti, invece semplicemente scaricano la coscienza. Ecco, mia nonna ogni tanto faceva così. Lo fa ancora adesso, però prima lo faceva di più. Per carità, è vero che poi col passare degli anni alcuni freni inibitori si allentano, le persone parlano con più facilità. E poi, devo dire, lei è sempre stata genuina e anche piena di fiducia nei confronti del mondo. Però, quando mi dice sempre la cruda verità, è un po' ti fa male, eh? Non so, quella volta in cui ha detto che aveva visto la mia fidanzatina con un altro, avevo 13 anni, poteva evitarmi l'umiliazione. O quando mi ha visto come la facevo nel letto, come tutti, ed era ancora piccolo, poteva dirmi non lo so, che capitava anche a mio nonno quando aveva la mia età, no? Cose del genere. Invece niente, nella nostra famiglia sei il primo che se le fa ancora addosso da grande. Datti una regolata. Insomma, il tatto non è mai stata una sua caratteristica. Ecco, a mia nonna però ho sempre fatto molti regali. Le ho sempre voluto un gran bene, un po' perché se li meritava, è sempre stata una gran nonna, un po' perché ne aveva bisogno. E poi avevo voglia di aiutarla a rinfrescare un po' la sua immagine pubblica. Pensateci un attimo, le persone anziane hanno sempre addosso lo stesso aroma. È come se si fossero messi d'accordo. Che non è né un profumo né una puzza. È un odore che hanno solo loro. E che si può ritrovare negli armadi, ad esempio, nei cassetti. Non ho mai capito se mi piace oppure no. Di certo quell'odore lì non ce l'ha nessun altro. Insomma, siccome ogni tanto cambiare fa bene, io le regalavo camicie, oggetti, pantofole, un po' di tutto. La casa della nonna è sempre stata piena di mobili, di quelli che non hanno marca. E non è che li puoi vedere anche in altre case. Ma perché gli oggetti di una volta erano pezzi unici, più delle volte. Oppure quando erano fatti in serie nessuno aveva comunque capito l'utilità di metterci sopra un marchio. Per cui c'era l'armadio della nonna, i materassi della nonna, l'ombrello della nonna, i piatti della nonna. È talmente così evidente che nei supermercati adesso hanno cominciato a vendere tipo le conserve della nonna, gli gnocchi, altre genialate della nonna, insomma. Ma così la casa rimaneva un po' datata. Ecco perché cominciai a regalarle oggetti moderni. Perché anche la nonna venisse a fare parte del magico mondo del consumo. Le uniche cose moderne che entravano in casa sua erano i cibi confezionati, no? Tipo i vasetti di yogurt, oppure i cartoni del latte, le scatolette del tonno. E quelle davano all'ambiente che di straniante. Voglio dire, come fa uno yomo in plastica a stare vicino a un mobile della cucina datato 1900 e pieno di pentole in rame? Come fa? Male. Male, ma fa. E allora, un giorno decisi di regalarle un mobiletto moderno. Scelsi con cura perché non volevo che fosse una presenza fastidiosa. Perché il moderno va bene, ma la nonna aveva storia e carattere. E mandarti a quel paese era un attimo. La spiaggia di guardia rovente era piena di gente. Si parlava di sport, di Pertini e Berzot. Io ignaro di questo, ignaro di tutto. Fabbricavo castelli di sabbia con paletta e secchiello ed in testa un cappello. Quando regalai alla nonna questo tavolino da telefono, pensai che si trattasse di un modo per ringiovanire la sua casa, senza essere troppo invadente. E poi, seppur piccolo, quel mobiletto avrebbe avuto un suo profumo, magari quel bello odore di nuovo di plastica di cui quella casa aveva tanto bisogno. Allora, la prima reazione della nonna fu: questo cos'è? Detto con un tono a metà tra il sorpreso e il disgustato, tipo, non lo vorrai mica lasciare qui. Insomma, era chiaro che non le piaceva. Come vi ho detto, non era una che sapeva mentire, mia nonna. Però ero il suo nipote preferito, mi aveva insegnato i piaceri delle pulizie di casa, mi aveva aiutato a domare i primi istinti verso le compagne di classe. Insomma, non poteva liquidarmi così. Era la mia nonna severa, ma buona, come ce ne sono tante. E capiva che non poteva esagerare. E capiva anche che rimanere troppo nel suo mondo voleva dire rischiare di lasciarmi da solo nel mio. Le nonne amano i nipoti. Sono la loro seconda possibilità di essere madri. Quella inaspettata, senza le poppate notturne. Le nonne amano i nipoti in maniera più sorprendente di quanto possano fare le madri. Sebbene non riuscisse a mentirmi facendomi capire quanto trovasse ripugnante quell'oggetto, la mia nonna si sforzò di farselo piacere e se lo tenne. Dunque, mi disse, fa schifo, ma può essere utile. Mia nonna era abituata al telefono a parete, sapete, di quelli neri, no? Tipo quelli che usavano Totò, Vittorio De Sica. E quando gliel'avevano cambiato, lo aveva sempre tenuto appoggiato sulla credenza, in alto, per mantenere l'abitudine a parlare stando in piedi. Però da quando le era venuto un po' di mal di schiena, si era decisa a mettersi seduta, col telefono in grembo. Il tavolino era proprio necessario, ma lei non lo voleva perché diceva che se si metteva troppo comoda a chiacchierare, la bolletta sarebbe stata troppo alta. Lei poteva anche chiacchierare per ore con le sue amiche, anche al telefono. Il tavolino però era profumatissimo ed era pure molto moderno, era una specie di shock per la casa di mia nonna. Alla fine fui felice di vederlo là dentro, fui felice che lei l'avesse accettato e poi fui anche felice di riprendermelo quando mia sorella gliene regalò uno più bello. Eppure, nonostante tutto, nonostante le nonne che non sanno mentire e il loro smisurato amore per i nipoti, questo tavolino io lo vendo. Il suo valore è di 25 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se avete raccontato una verità che avreste fatto meglio a non dire, la raccontate. 80024 0024. It's just another day at the office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Pezzi di filosofia arrivano qui a Radio 24, sono le 16:24 minuti, 349-238-6666. Le verità si scrivono solo sulla nostra autobiografia, da far leggere rigorosamente solo dopo il decesso. Se no, sai che palle. Ciao Piero Vicenza. Caro Matteo, nella vita la sincerità è tutto. Se riesci a simularla, sei a posto. Dimitri da Sesto Fiorentino. 80024 0024. Andiamo invece a Pistoia e sentiamo Alessandro. Pronto Alessandro? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera, come stai? Bene, te tutto bene? Complimenti per la trasmissione che mi garba da morire, mi diverte tantissimo. Ti ringrazio. Cosa fai nella vita, Alessandro? Io ho uno studio di consulenza amministrativa. Vabbè. Non è vero, dai, dimmi che non è vero. Giuro, giuro. Però ho una passione in comune con te, mi sembra di aver capito. Cioè? La passione dei rally, dell'automobilismo. Ah, beh, sì, c'è stato in un periodo della mia perché vita. Perché te hai venduto un casco. Avevo venduto rally, due caschi, uno da uomo e uno da donna, sì. Chiaramente esatto. Indotta come... Tu quindi guidi macchine da rally? Io ho fatto navigatore per più di 20 anni. Senti, ma quella roba lì che dicono i navigatori a caso, tipo gira, gira, frena, alt. No, non è, innanzitutto non è a caso. Non è a caso, ma sono scritte? Sì, facciamo le ricognizioni la settimana prima della gara ed è la parte fondamentale poi di... Quindi il navigatore non guarda la strada, legge... Poco, si va a senso frequentemente, specialmente nei tratti misto veloci guidati, sai? Sì, sì, chiaro, chiaro. Senti, quindi tu la verità che non volevi, che avresti fatto meglio non dire, non l'hai detta durante un rally, mi sembra di capire. No, no, io l'ho detta dopo una notte, dopo aver fatto l'amore con una ragazza. Sì. Che avevo conosciuto ed era un martedì, e la domenica nel Gran Premio di Ungheria Felipe Massa si era ritirato. Già sto tremando mettendo insieme queste due robe. Vai avanti, finisci. Felipe Massa si era ritirato all'ultimo giro del Gran Premio di Ungheria perché era rimasto senza benzina, e io ebbi l'impressione che avrebbe perso il mondiale, come poi purtroppo è stato. E finito di fare l'amore con questa ragazza mi chiese, che poi la domanda più stupida secondo me le donne fanno a un uomo: cosa stai pensando? A cosa sta pensando? No, ragazzi, sto pensando a Felipe Massa che si è ritirato e secondo me ha perso il mondiale. Ah, tu gliel'hai detto proprio? Sì, mi è venuta di botta, è come dicevi te prima, no? E mentre lo dicevo mi rendevo conto che stavo per fare una grande bischierata, però ormai ero partito. La reazione qual è stata? Non l'ho più rivista. Benissimo. Alessandro, grazie mille, buona giornata. Ciao, anche a te. Ciao, alla prossima. Purtroppo quelli che sono al telefono li risentiamo un'altra volta perché abbiamo finito. Visto però che stiamo veramente per finire, manca meno di un mese, mi va di farvi sentire che cosa farò con i soldi che sto tirando su. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. E visto che non siamo qui a pettinare le bambole, ci siamo già lanciati col paracadute, noi ci prepariamo a salire sul Monte Rosa facendo una sorta di avvicinamento, giusto Tiziano? E questo fine settimana io e Bonini andiamo sul Gran Paradiso. Ho venduto gli scarponi da montagna, bisogna trovare un modo per fare altrimenti. Grazie a Laura Faggina, Stefano D'Andrea, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Il tavolino è sul sito, domani vendo il letto. Voi invece, se avete una nonna, godetevela, che la nonna alla fine è sempre la nonna. Love, love, love, wherever you get the-